24 mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 16 minuti e 40 secondi inizia questa terza parte di 24 mattino di lunedì 20 aprile. Buongiorno di nuovo cara ascoltatrice, cari ascoltatori, da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti coloro che ci seguono. I quali ci possono raggiungere al 349-238-6666 con messaggi WhatsApp audio o all'800-24-00-24 se vogliono intervenire in diretta. Parleremo tra poco del tema della riapertura, riaprire come, quando, è troppo presto, bisogna fare regione per regione, le vostre opinioni sono benvenute. Maria, invece ci volevi parlare di campi e di zappare oggi? Sempre guardando a quello che succede nei paesi vicini, perché bisogna sempre tenerli d'occhio, vedere se fanno meglio di noi, se noi possiamo imparare. Ebbene, per una volta pare che forse non dobbiamo imparare troppo, perché il Guardian ci comunica che i lavoratori britannici, anche quelli disoccupati o che sono in welfare, sapete che in Gran Bretagna ci sono addirittura famiglie che da tre generazioni ricevono i sussidi statali e non lavorano. Questo per esempio succede in aree come il Galles. Ebbene, il Guardian ci comunica che molti lavoratori britannici che prima avevano mostrato interesse alla richiesta da parte di associazioni che si occupano di trovare lavoratori per i campi avevano risposto di sì, poi alla fine soltanto una parte di questi ha accettato il lavoro e dunque pare che siano partiti per la Gran Bretagna dei voli privati di operai rumeni che vengono considerati più capaci di svolgere il lavoro nei campi, sono gli stessi che magari l'anno scorso avevano fatto lo stesso lavoro e dunque i proprietari di terreni che si trovano nella stessa situazione che in Italia ricorrono alla manodopera rumena perché secondo quanto dice il Guardian solo pochi, il 20% soltanto di coloro che aveva risposto all'appello per lavorare nei campi ha accettato. Maria, fammi dire una cosa, con un bel paradosso, perché se Brexit l'hanno fatta esattamente per evitare che lavoratori comunitari come i romeni venissero a fare concorrenza a basso costo sul lavoro, no? dei britannici. Infatti, e poi che succede? E poi tra l'altro in Romania c'è il lockdown, quindi il quotidiano britannico si chiede, ma a questo punto cosa fanno, come fanno? Apparentemente vengono viene loro misurata la temperatura, vengono forniti di mascherine, però il punto è che ci sono questi voli dalla Romania per la Gran Bretagna per curare i campi. Invece, poiché questo è un dibattito aperto in Italia, ne parla oggi anche La Verità con un appello del giornalista Pietrangelo Buttafuoco che dice ai giovani italiani tornate nei campi, ebbene Coldiretti sostiene che in poche ore centinaia di domande sono arrivate alla Coldiretti per il lavoro nei campi. C'è una piattaforma che si chiama Job in Country e dopo la fase sperimentale in Veneto c'è una corsa, sempre secondo Coldiretti, poi voglio vedere quanti davvero andranno a lavorare nei campi. Il 60% di chi ha risposto a questo appello ha tra i 20 e i 30 anni. Fosse così mi sembra un bel tema. Anche perché siamo in lockdown praticamente da un mese e quindi vedremo quanto dureranno, magari ci vanno nel campo un giorno e mezzo per prendere un po' d'aria e poi ritornano indietro, ma magari no, magari no. Allora, apertura, quando, come, in che territori, con che misure di sicurezza è il grande tema di queste ore e di queste settimane sicuramente. Carlo Calenda, parlamentare europeo, ex ministro dello sviluppo economico, fondatore di Azione, buongiorno Calenda, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno, buongiorno a voi. E buongiorno a Nino Cartabellotta, presidente di GIMBE, fondazione dell'associazione Gruppo Italiano per la Medicina basata sulle evidenze. Torna da noi anche Cartabellotta. Bentornato Cartabellotta anche a lei. Buongiorno Simone, buongiorno Maria, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Maria, prego. Allora, la prima domanda è per Cartabellotta, ma non ce l'ho ovviamente con lui, ce l'ho un po' con tutti questi epidemiologi, virologi che da un mese sono ospiti di tutte le trasmissioni, noi con molta, diciamo, con molta misura, no, Simone, li abbiamo invitati, però sì, invece sì, ci sono sì, quelli che stanno praticamente dalle 7 del mattino alle 23 in TV. E, alcuni di questi adesso sono diventati una specie di marchio di fabbrica, nel senso che c'è il nome di Burioni, pum, un bel timbro e apre Ferrari, può aprire Gucci, eccetera. Le chiedo, Cartabellotta, fermo restando che ovviamente quando uno dà un parere professionale va retribuito e questo ci mancherebbe, ma non sarebbe il caso adesso magari di ridimensionare un po' tutte queste presenze, perché certamente tutta questa TV ha fatto anche molta pubblicità ad alcuni nomi. Ma guardi, io credo che questa è una responsabilità degli organi di informazione, per quello che mi riguarda e ci riguarda come Fondazione Gimbe, che come sapete è un ente di ricerca indipendente, noi ci limitiamo a fare delle valutazioni su quelli che sono i numeri ufficiali, di fare delle proposte a livello nazionale sperando che possano essere prese, diciamo, in considerazione. È evidente che la cosiddetta infodemia, che è il cui rischio è stato lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità già ai primi di febbraio, cioè il troppo parlare di questo argomento inevitabilmente crea una serie di disorientamenti. È evidente che dal punto di vista squisitamente tecnico sarebbe anche opportuno che una serie di decisioni e di valutazioni che vengono fatte dal Comitato Tecnico Scientifico per informare il governo vengano rese pubbliche, perché inevitabilmente quando non ci sono dati speciali... Io sto parlando di quei professionisti che danno un parere a una grande azienda facendosi ovviamente retribuire lautamente. È il mercato, no? È il mercato, Maria. È il mercato, Maria, no? C'è anche molta presenza TV. È una legge del mercato, si alimentano i fenomeni mediatici e chiaramente le competenze di ciascuno vengono riconosciute a tutti i livelli. È un'attività che io non svolgo e non svolgerei mai, perché il nostro lavoro è quello di fare, diciamo, attività di supporto istituzionale con quelle che sono le analisi ufficiali dei dati, perché troppe opinioni rischiano poi di disorientare un po' il pubblico e la popolazione in generale. Allora, Calenda, c'è chi dice è troppo presto per ripartire, è troppo presto per riaprire. C'è chi dice, dall'altra parte invece, no, perché di mancanza di lavoro, di economia ferma, si muore tanto quanto di Covid-19. Lei dove si pone? Ma io mi pongo che non ha nessun senso se riaprire o non riaprire, perché non si riaprirà mai completamente o si può rimanere chiusi completamente per i prossimi mesi. Quindi il tema è come riaprire molto progressivamente, o almeno come avere chiaro il quadro di quali sono le condizioni che ci devono essere per la riapertura. Cioè, se voi avete ascoltato la conferenza stampa della Merkel di qualche giorno fa, la Merkel ha spiegato esattamente a quale discesa della curva dei contagi corrispondeva una graduale apertura. Questo è quello di cui noi abbiamo bisogno. Guardi, io non ho mai fatto dall'inizio di questa epidemia mai un Milano riparte, abbraccia un cinese, vogliamoci bene, chiudete tutto, stato zitto sulle questioni sanitarie, e ho obbedito al governo e ho detto alle persone di obbedire al governo, perché non ho la competenza, non sono un epidemiologo, però a questo punto quello che va chiarito è quali sono le condizioni di riapertura e le modalità di riapertura. Cioè, uno può anche dire, guardate, lo facciamo fra X giorni, lo facciamo in questo modo, quando avremo questo dato. Questa è la cosa che non c'è, perché finché tu devi dire agli italiani state tutti a casa, il peso e la responsabilità dell'azione è tutto sugli italiani. Era giustissimo farlo, intendiamoci. Ma quando tu devi agire come governo e dire per aprire bisogna avere i dispositivi, bisogna fare gli accordi con le fabbriche, bisogna fare i turni nei negozi, eccetera, eccetera, mi sembra che l'azione del governo sia completamente mancante. Ma è troppo Calenda, presto? Mi perdoni. È troppo presto, Calenda? Scusi, non ho capito. A suo giudizio è troppo presto per ripartire? No, io penso che devono ripartire alcune attività produttive, perché penso, come ho detto, che noi abbiamo, per quanto riguarda le fabbriche, anche un dato oggettivo, cioè le fabbriche sono rimaste in parte aperte, no? Anzi, in larga parte, diciamo, aperte in questo periodo. Quindi noi sappiamo, o possiamo sapere se raccogliamo i dati, qual è il rischio reale di un ambiente controllato quale quello di una fabbrica. Io penso che sono le cose più semplici da riaprire, dove si può controllare, ma per esempio c'è un tema gigantesco collegato ai trasporti, uno, e il secondo collegato ai figli, dove li metti, perché le persone che devono tornare a lavorare hanno dei figli, non li possono affidare ai nonni, le scuole sono chiuse, Quindi è un sistema che è tutto collegato e tu devi rimetterlo insieme con un filo rosso che dice: quando riapriamo le fabbriche servono anche i trasporti fatti in questo modo, che ne so, i buoni benzina agli operai in maniera che possano andarci con la loro macchina, eccetera, eccetera. Questo è la cosa che non c'è, le modalità, il foglio del come, che è la cosa che manca sempre in Italia. Senta Calenda, a proposito di come ripartire, ieri c'è stata una conferenza stampa del primo ministro Edouard Philippe in Francia. La Francia ha seguito finora il modello italiano, adesso sta sopravanzandoci. E il primo ministro Edouard Philippe ha detto di fatto quello che ha detto anche il ministro Patuanelli qualche ora dopo in TV, e cioè bisognerà tenere conto delle realtà territoriali, cioè nei territori, nelle regioni dove il coronavirus ha fatto meno morti e ci sono meno problematiche, forse si potrà ripartire prima. Questo ha detto il primo ministro francese e questo in un certo modo l'ha detto anche Patuanelli, l'abbiamo sentito anche al GR di Radio 24. Le sembra un buon criterio? Mi sembra persino la palissiano, ma è chiaro che tu quando sei in un'area di contagio ancora forte e virulenta devi stare più attento, e quindi la riapertura può essere messa in discussione da questo, solo che il tema non può essere fatto a livello regionale, ma deve essere fatto a livello di raggio, diciamo, di spostamento delle persone, no? Perché le regioni sono enormi, quindi tu devi dire: in quella provincia c'è ancora un tasso di contagio alto, focolai accesi, eccetera, eccetera, e non si può fare. In quell'altra, questo è esattamente, cioè, il lavoro che si sarebbe dovuto fare, io l'ho detto la prima volta, credo più di un mese fa, dicendo: incominciamo a lavorare da subito su questo, quali sono le condizioni e le modalità di riapertura, perché se no farlo adesso diventa impraticabile. Oggi leggevo sul Corriere che c'è questa proposta di braccialetti per gli anziani, eccetera, ma noi stiamo parlando di una roba che già solo produrla e distribuirla andiamo a settembre con i tempi italiani, per cui che senso ha parlarne ora? Ecco, questo credo che manchi, cioè manca un pragmatismo di quello che si può fare. Io non lo vedo, non lo sento. Allora nasce tutta una grande confusione, è quello che diceva anche lei prima, cioè il fatto che ogni giorno c'è una notizia differente sui giornali, alle televisioni, la gente è completamente confusa, non capisce se staremo chiusi per 2 anni, se staremo chiusi per 15 giorni, cioè questa cosa qui deve un po' cessare. Cartabellotta, voi ogni giorno analizzate i numeri, lei li diffonde anche sui vostri social, dai numeri che vede, intravede una possibilità di allentamento del lockdown oppure no? E in particolare le chiedo per la Lombardia, che è quella che ha provato a gettare il cuore oltre l'ostacolo, pur essendo, no, il centro di questa epidemia, le sembra possibile? Sì, no? Presupponendo che la decisione è molto difficile e come ha affermato l'onorevole Calenda, che saluto, è una decisione politica, governativa, che deve partire a livello nazionale con l'accordo delle regioni e che dipende, secondo le nostre analisi, da 5 variabili: le attività produttive, le libertà individuali, i mezzi di trasporto, il rischio di specifici sottogruppi di popolazione in relazione all'età e a patologie concomitanti e soprattutto l'evoluzione del contagio nelle diverse aree geografiche. Allora, per rispondere alla sua domanda, noi questa mattina abbiamo pubblicato la nostra analisi, che andrà praticamente alle agenzie di stampa tra qualche minuto, che smentisce l'ipotesi di questo frazionamento dell'Italia in nord, centro e sud, perché le variabili da tenere in considerazione sono, da un lato, la prevalenza, cioè qual è la densità di casi per quell'area geografica, sia a livello regionale sia provinciale, dall'altro quella che è la velocità di crescita, cioè l'incremento percentuale non giornaliero ma settimanale, perché sappiamo che i dati giornalieri sono troppo volatili. Allora, la mappa che viene restituita della situazione italiana, abbiamo fatto anche una mappa lombarda, quindi, diciamo, quasi anticipando la sua domanda, ci fa vedere che noi ancora abbiamo la maggior parte di regioni che stanno sopra una crescita settimanale dei casi del 5-6%, che è una percentuale ancora troppo elevata. Quindi queste 2 settimane prima del 4 maggio bisognerebbe utilizzarle al meglio per, come ha sottolineato anche Calenda, scriverlo questo piano del come, perché altrimenti noi inseguiamo delle ipotesi di riapertura che poi non vengono confermate dai numeri. E se le regioni, qualcuna di queste regioni o qualcuna di queste province, perché la situazione lombarda non è così allegra, ci sono province che noi non teniamo in considerazione perché hanno un numero di casi molto basso, penso a Sondrio, a Varese, a Como, ma anche alla stessa Mantova, che però hanno delle percentuali di incremento molto elevate, e queste ovviamente rischiano nelle settimane successive di aumentare il numero dei casi assoluti e ovviamente anche di trasferirsi in casi in ospedalizzati piuttosto che di terapie intensive. Cioè il lockdown complessivamente con i due decreti, il io resto a casa e il chiudo Italia, ha dato un buon risultato sugli ospedali, perché le terapie intensive e i posti ospedalieri si sono alleggeriti di molto. Ma sul controllo del contagio ancora siamo indietro, perché ci sono verosimilmente delle cause, i contagi intrafamiliari, gli operatori sanitari, in alcuni luoghi di lavoro probabilmente non sono state rispettate le misure di sicurezza, per cui non si riesce a scendere da quel plateau, da quell'altopiano dove siamo ormai inchiodati da circa due settimane. 800240024 se volete intervenire in diretta, dire la vostra, anche il 349-238-6666 per i messaggi WhatsApp che ci ha scritti, che audio naturalmente. Una pausa, torniamo tra un attimo. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. Ed eccoci di nuovo, Maria, prego. Sì, una domanda sulla tensione politica, diciamo così, visto che in queste ore si sono praticamente varate le nomine per i vertici di importanti aziende statali. Allora, fino a qualche settimana fa la vulgata, il pensiero più comune era l'accusa rivolta al PD, al Partito Democratico, di essere un po' succube del Movimento 5 Stelle. Invece, dopo queste nomine si dice, il Movimento 5 Stelle si è accontentato di qualche poltrona e il Partito Democratico ha vinto su tutta la linea. In realtà sono stati confermati quasi tutti gli amministratori delegati che erano stati nominati ai tempi dei governi Renzi e Gentiloni, quando c'era anche lei. Che giudizio dà di queste nomine? Secondo me la continuità in un momento di questo tipo è una cosa positiva, e poi tra l'altro le persone in questione sono molto in gamba, sono professionisti di grande qualità, e però penso che invece qualche tensione c'è stata, vedo insomma quella nel Movimento 5 Stelle, il tentativo di rimuovere Descalzi dall'Eni, che è uno dei migliori professionisti al mondo per quanto riguarda soprattutto il petrolio. E quindi secondo me le tensioni ci sono state, ma è il sintomo a mio avviso di una questione più profonda, cioè che noi quest'anno avremo una contrazione del PIL che non c'è stata dal 45 in poi. Non si può affrontare con un governo che è un governo di parte, cioè è chiaro che tu oggi hai bisogno, anzi dico avresti bisogno di un governo di unità nazionale politico, e che il fatto che non si riesca a mettere in piedi porterà delle tensioni aggiuntive, perché tutte le scelte che dovremo fare saranno scelte nei prossimi mesi pesantissime, e se tu non hai tutti i principali partiti all'interno di una grande coalizione di governo, è chiaro che ci sarà un pezzo significativo che proverà a avvantaggiarsi della situazione del paese dipingendo il governo come incapace, certe volte a ragione, altre volte a torto, ma non ci sarà quell'unità che serve in questo momento indispensabile. Ora, subito dopo la guerra l'hanno fatta tra comunisti e stalinisti, perché tale era Togliatti, seppure persona di grandissimo livello, e democristiani. È un po' incredibile che non si riesca a fare oggi. Berlusconi un segnale l'ha lanciato. Ma Berlusconi secondo me è del tutto disponibile. Qui la questione è capire che cosa vuole fare la Lega, perché la Lega ha da un lato la linea di Salvini, che mi pare molto debole in questa circostanza, nel senso che è stato sempre molto generico nelle richieste, ha sempre fatto tutto il casino che è stato fatto sul MES, dimostra una mancanza di anche di capacità di approfondimento e di superficialità che non ci possiamo permettere. Però la Lega ha anche persone come Giorgetti, Zaia e tanti altri che invece sono molto più pragmatici. Ecco, quella è la cosa fondamentale, cioè capire cosa la Lega vuole fare. Se la Lega vuole dare un contributo per costruire, come posso dire, per ricostruire il paese, oppure se vuole continuare a fare la forza irresponsabile che gioca sullo sfascio dell'Italia. In questo caso, secondo me, il rischio per il paese è enorme. Sentiamo l'ascoltatore, via, vai. Ce l'abbiamo, Peter, vai. Buongiorno, mi chiamo Oreste, abito in provincia di Brescia e gestisco 3 ristoranti tra le province di Bergamo e di Brescia. Premesso che mi interessa meno sapere quando apriremo, perché sono conscio della situazione grave nelle nostre zone. Però quello che è curioso e anche demoralizzante è che noi non abbiamo ancora nessuna regola di ingaggio ovvero non sapremo quando si potrà aprire, come si potrà aprire, quindi distanza fra gli occupanti del tavolo, distanza fra i tavoli, presidi medici, il nostro personale come dovrà essere trattato. Ecco, non sappiamo niente. Insomma, il concetto è sempre quello: datemi un'idea di quello che potrebbe succedere, perché io devo organizzare la mia azienda esattamente su quella base, insomma, sulla base di norme certe. Carta bellotta è quello che ci dicevamo prima, cioè manca, oltre a mancare un po' di strategia, no? Manca anche una qualche indicazione, no? di massima, quantomeno, che permetta agli imprenditori di organizzarsi. Aggiungo, carta bellotta è la fase 2 o è la fase 3? Per capirci, è quello su cui sta lavorando la task force di Colao? Ma tutto questo dovrebbe rientrare nella fase 2, perché di fatto la riorganizzazione delle attività produttive influenza inevitabilmente quelli che sono i criteri per la riapertura, il cosiddetto come. Sappiamo che c'è uno studio dell'INAIL che è stato consegnato a Colao e a Conte rispetto a quelli che sono i rischi delle varie attività produttive, dividendoli in bassi, medi e elevati, però come giustamente lamentava il ristoratore non ci sono delle azioni pratiche, delle previsioni specifiche, perché è evidente che se la regola della scienza unica è quella del distanziamento sociale, come questa la politica poi decide di applicarla ai vari ambiti dipende da contesto a contesto. È molto difficile oggi riuscire a immaginare quei ristorantini tanto carini a cui eravamo abituati, che avevano i tavoli a mezzo metro di distanza, ma soprattutto è anche difficile immaginare come due persone che vanno a cena possono mantenere il distanziamento sociale, vista quella che è anche la dimensione dei tavoli, perché il vero problema è che noi dobbiamo considerare che esistono dei luoghi pubblici, quali bar e ristoranti, che sono degli elementi, sono dei posti di aggregazione sociale, dove alcuni elementi di distanziamento, al di là della riorganizzazione dei tavoli, sono di fatto impossibilitati dal reale utilizzo che noi ne dobbiamo fare, tranne che immaginiamo di andare tutti al ristorante da soli. Al di là di quella che è la perplessità giusta espressa dal ristoratore, ecco, tutti questi dettagli, cioè di come mantenere il distanziamento sociale per favorire l'ulteriore abbassamento della curva man mano che si dovesse riaprire, soprattutto in quelle aree geografiche dove il virus circola relativamente poco, è tutto nella testa di non si sa chi, perché di fatto questo piano non esiste al momento, o comunque esiste e non è reso pubblico, e questo ovviamente disorienta tutti i cittadini italiani per quelle che sono le libertà individuali, ma anche tutti quelli che gestiscono le imprese. Ecco, se mi si permette un'ultima parola, noi all'interno dei due decreti abbiamo delle limitazioni di libertà individuali che sono estremamente restrittive rispetto al rischio di contagio, mentre poi consentiamo una serie di spostamenti di persone, cito una per tutte, la metropolitana, che inevitabilmente incrementa il rischio dei contagi. Quindi se non c'è uniformità di azioni nella fase del come, che ovviamente sarà molto più delicata della fase 1, dove molte cose purtroppo sono state gestite con una certa emergenza, è inevitabile che noi non ci schioderemo da questo plateau che comunque ci dovrà costringere a convivere con il virus. Però una cosa è convivere con un virus che progressivamente scende anche in tempi medio lunghi, una cosa è convivere con un virus che rimane su quel plateau che rischia di impennarsi nuovamente. Maria. Calenda, torno sulla task force di Colao, perché ci sono ovviamente delle competenze diverse, non sottovaluterei anche l'aspetto psicologico che è rappresentato nella task force di Colao e che tiene conto anche appunto del particolare momento, che lungo momento che tutti noi stiamo vivendo. Lei che ha avuto responsabilità di governo, pensa che la task force di Colao potrà davvero essere utile o ci sarà una specie di lavorio contro, per cui alla fine si cercherà di mettere delle zeppe a questo lavoro? Nel senso che è un comitato consultivo, che è un concetto completamente diverso dalla task force, perché quando abbiamo suggerito un mese fa di mettere insieme proprio una task force, abbiamo anche mandato una chart organizzativa di come andava fatta. La task force ha una caratteristica, cioè che ha l'organizzazione, è responsabile dell'organizzazione, questo invece è responsabile di dare dei criteri, suggerimenti, per carità, è una cosa molto anche importante. Qual è il problema però? Che in Italia il 99% dei problemi avvengono nella fase implementativa, cioè quello che non si riesce a fare è gestire, oltre che programmare. E questo è l'aspetto più delicato, perché noi parliamo dell'apertura come una variabile indipendente, ma non è una variabile indipendente. L'apertura dipende anche, per esempio, da quante mascherine sono distribuite, oppure da quanto accesso a, per esempio, analisi sierologiche puoi avere, o quanta disponibilità di tamponi hai e come li puoi fare. Tutto questo condiziona quando tu potrai aprire. Allora, questa parte qua è una parte molto difficile da prevedere se tu non hai il governo, in qualche misura, delle strutture che la presidiano. E se tu anche la prevedi, come posso dire, fai uno sforzo previsionale per cui dici, che ne so, ci vogliono 30 milioni di mascherine al giorno perché più o meno se ne consumano due a testa, eccetera. Adesso dico un numero ovviamente per dire. Ma è questa roba qua, sei indipendente da chi poi dovrà procurarle queste mascherine, diventa molto complicato. Allora, questa non è una task force, è un comitato consultivo. Siccome Colao è probabilmente il miglior manager in giro per l'Italia e non solo, produrrà un lavoro intelligente e approfondito, ma purtroppo il rischio che rimanga sulla carta, secondo me, è un rischio gigantesco, perché nessuno ha la responsabilità implementativa, come succede sempre in Italia. Francesco da Reggio Calabria, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno. Prego. A voi. Niente, io volevo capire diciamo il motivo per cui alcune regioni con casi bassissimi, quali la Calabria e il Molise, non ripartano. E cioè, questa è una cosa che a me mi fa impazzire, perché comunque se dobbiamo aspettare che regioni come la Lombardia, il Veneto o l'Emilia Romagna si riprendano, cioè non ne usciamo più neanche noi. Il problema è che qui già abbiamo un'economia disastrata. Cioè, più avanti andiamo e più danni facciamo. Qui la gente ha paura. Quindi non è che, cioè, è una follia che se riapri ti agglomeri, ecco, comunque si creano degli agglomeramenti. Quindi volevo capire perché dobbiamo attendere ancora. Guardi, guardi, Francesco, è un po' il tema che si sta ponendo in queste ultime ore. Vorrei sentire Cartabellotta subito dopo la pausa. Dunque, Cartabellotta, perché non riaprire per esempio Molise e Basilicata, che stanno a zero casi? Ma guardi, Cartabellotta, visto che già il ministro dello sviluppo economico ha detto che si andrà in quella direzione, ma come? Allora, il problema reale è l'identificazione delle aree geografiche. Come avevo anticipato, noi abbiamo fatto questa analisi indipendente che uscirà questa mattina, che divide l'Italia in quattro quadranti. Nel quadrante, tra virgolette, più sicuro ci stanno di fatto tutte le regioni del sud, Sicilia, Campania, Sardegna, Molise, Basilicata e Umbria, ad eccezione della Puglia, che sta in un quadrante dove c'è un incremento percentuale superiore. La necessità di attendere altre due settimane è legata al fatto che regioni come Sicilia, Campania, ma anche la Calabria, nonostante i casi siano pochi per 100.000 abitanti, ecco, bisogna cominciare anche a ragionare nell'ottica che non dobbiamo guardare più i numeri assoluti, ma li dobbiamo sempre ormai riportare alla popolazione residente, anche perché la cosiddetta prevalenza, che è il numero di casi per 100.000 abitanti, è anche un indicatore diretto di quello che è il sommerso, cioè di quei casi che noi non conosciamo. Quindi il numero assoluto oggi ci dice relativamente poco. Queste regioni, anche quelle del sud, nonostante la prevalenza sia relativamente bassa, diciamo, rispetto ad altre aree italiane, quindi siamo intorno a 100-200 casi per 100.000 abitanti, hanno ancora delle percentuali di crescita che stanno intorno al 10-15%. Quindi se questo 15% si mantiene, non rallenta nelle prossime due settimane, tra due settimane avremo 250-300 casi per 100.000 abitanti. Cioè, noi dobbiamo cominciare a leggere con la stessa lente quelli che sono i vari territori, sia regionali sia provinciali, perché altrimenti questa ripartenza, che deve essere chirurgica per ovvie ragioni, tenendo conto anche di tutti quegli altri aspetti che abbiamo sottolineato, attività produttive, trasporti, libertà individuali e quant'altro, ma deve guardare ovviamente con una regia nazionale quella che è l'evoluzione dell'epidemia in termini di quantità di casi e in termini di velocità di aumento, perché ovviamente ci possono essere dei nuovi focolai che fanno schizzare in alto una regione o una provincia. Quindi quello che è la raccomandazione fondamentale, non guardiamo più il numero assoluto dei casi, perché questo potrebbe essere basso, ma se il territorio è molto piccolo è evidente che la prevalenza è molto elevata. Oggi per esempio nessuno parla della Valle d'Aosta, che ha una prevalenza di 900 casi per 100.000 abitanti, che è la più alta d'Italia. Ma perché? Perché di fatto nella tabella dei casi della protezione civile il numero assoluto dei casi è relativamente contenuto. Quindi bisogna cambiare unità di misura e questo bisogna farlo in tempi rapidi e deve essere un'unità di misura che valga a livello nazionale, regionale, provinciale e anche locale, perché altrimenti non ne veniamo più fuori rispetto a questa riprogrammazione secondo criteri geografici. Grazie Nino Cartabellotta per essere stato con noi, Presidente di GIMBE, Fondazione dell'Associazione Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze. Maria, hai un'ultima domanda per Calenda prima di salutarlo? Sì, per Calenda, veramente una risposta in pochi secondi, onorevole Calenda. Bisogna riaprire le scuole e se sì, perché? Le scuole, differenziando tra gli alunni che ci devono andare per forza perché i genitori lavorano e quelli che invece hanno la possibilità di fare lavoro anche da casa, perché altrimenti semplicemente non riusciranno ad andare alle fabbriche, quindi bisogna farlo con attenzione, ma bisogna prevederlo. Grazie Carlo Calenda per essere stato con noi, anche a lei, europarlamentare, ex ministro dello sviluppo, fondatore di Azione. Oh Maria, a proposito delle task force, qualche ascoltatore ci ricorda quelle sulla spending review, quelle sulla revisione della spesa, e anche quelle hanno fatto non una bellissima fine, non una bellissima fine. Cottarelli ce ne abbiamo ancora da chiacchierare, i testi ci sono, le decisioni politiche conseguenti non ci sono state, no, ovviamente. Non ci sono state. Allora, settimana del Consiglio Europeo, si parlerà del MES, si parlerà ovviamente di Eurobond. Già questa mattina troviamo tracce dell'intervista alla Süddeutsche Zeitung del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel quale dice che l'Italia è stata lasciata sola, un po' se la prende con la Germania. Siamo con Sandra Maria Grönewald, che è una giornalista della ZDF. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno Simone, buongiorno Maria. Maria, prego. Buongiorno Sandra. Allora, intanto spieghiamo, Sandra Maria Grönewald parla un perfetto italiano perché ha studiato in Italia, ma una delle ragioni per cui è nostra ospite è che lei ha proposto un appello ai suoi connazionali chiedendo delle donazioni per la difficile situazione nella quale si è trovata l'Italia. Che reazioni hanno avuto i connazionali tedeschi, Sandra Maria Grönewald, a questo appello che tu hai proposto? Ma insomma, per prima cosa devo dire che questo appello non l'ho fatto come persona politica, che ovviamente non sono, e neanche come giornalista televisiva, ma proprio come, diciamo, persona privata che ama l'Italia da sempre. E quindi far conoscere il conto corrente per le donazioni è stato il minimo che potevo fare come persona privata, perché sì, infatti, come tale l'ho fatto per l'appello. E le reazioni all'appello proprio sono positive, devo dire, qua in Germania. La gente sembra provare una solidarietà profonda verso l'Italia, secondo me. E quindi credo e spero di aver detto quello che molti pensano qua in Germania. Quindi l'appello è andato bene. In queste ore abbiamo, insomma, come si diceva, un po' di tensione, come siamo stati abituati a vederla, no? In questi anni, tra paesi del nord e paesi del sud. Che lettura danno i tuoi connazionali di questa questione, no? Sempre il tema l'Italia spendacciona, un po' la rappresentazione caricaturale, no? L'Italia spendacciona, per non dobbiamo mettere il debito in comune, sì, con l'Italia spendacciona. È ancora così, è ancora così forte, o questa vicenda ha cambiato un po' le cose? Vabbè, prima devo sottolineare il fatto che non posso e non vorrei fare dichiarazioni politiche qua, ma posso ripetere che qua in Germania c'è molta solidarietà verso l'Italia. Se guardo intorno, molti italiani che vivono qui, tanti tedeschi che amano l'Italia non solo per andare in vacanza, e anche questo, cioè, non è cambiato questo. I rapporti delle economie, la vicinanza geografica, insomma, io provo un forte legame tra le due nazioni, al di là di politica, di dibattiti sul MES, sul recovery fund, eccetera. C'è questa amicizia preziosa da decenni. Ma certo che lo so che anche in questi giorni c'è gente in Italia che non la vede proprio così, magari che ce l'ha con la Germania, segue i giornali, anche quelli italiani a volte, e le tendenze. Ma a me, per esempio, mi ha fatto male il video del vostro attore Solenghi che parla dei tedeschi cattivi, perché non è così, non è che ci sentiamo superiori agli italiani. A proposito della vita, anche così l'ambasciata italiana, che apprezza molto la solidarietà, diciamo, corale, la solidarietà dal basso qui in Germania, cioè dalla società civile, perché sono espressioni di un affetto, diciamo, genuino, incondizionato. Comunque è importante, certo, anche la collaborazione politica da governo a governo, quello sicuro, anche a livello europeo. Sandra, insomma, posso chiederti una cosa, visto che i minuti corrono, non tanto come giornalista ma come cittadina e come madre di due figli? Io sono molto curiosa di capire perché, con quale sistema per garantire la sicurezza sanitaria degli studenti e degli insegnanti, ecco, perché le scuole in Germania riaprono, visto che purtroppo da noi questo non succederà. Sì, infatti anche noi siamo curiosi. In parte a partire da questa settimana, nella maggior parte delle, a partire dal, credo, il 27 aprile, le scuole riapriranno dopo 5-6 settimane, ma, e questo è molto importante secondo me, a piccoli passi, cioè solo per le quarte elementari e le classi che prevedono esami o le classi prima del passaggio al ciclo successivo come liceo, oppure le ultime classi dove si preparano per la maturità. Quindi rispetto al solito ci sono pochissimi alunni in un edificio grandissimo, quindi più facile magari l'adozione delle misure di distanza, difficile in un asilo o nelle prime classi elementari, ovviamente. Sì. Quindi io personalmente devo dire, come mamma di un figlio di 5 anni e una figlia di 7 anni, ne sono contenta, meglio averli a casa i bambini piccoli, onestamente. Io magari sarei preoccupata se tornassero a scuola ora, e lo sono molti genitori qua in Germania. Sì. Quindi è prevedibile anche che, insomma, alcuni proprio non ce li mandino, secondo te, Sandra? Come, non ho capito? È possibile che qualche genitore proprio non ce li mandi, perché mi dicono che anche in Francia insomma qualche preoccupazione c'è, tutto sommato, per questa riapertura dell'11 c'è maggio. C'è la preoccupazione, ma comunque c'è anche il dovere. Come sapete, noi tedeschi siamo molto precisi, quindi se dobbiamo andarci, ci andiamo. Non credo che i genitori non manderanno gli alunni. Come ho detto, sono gli alunni, diciamo, quelli che possono adottare le misure di distanza di 1,5 metri, cioè alunni che dovrebbero capire per la loro età cosa vuol dire non mettersi le mani in faccia, lavarsi, disinfettarsi le mani, insomma, che rispettano le misure di prevenzione. Ma comunque vedremo se funziona questo pian piano, a piccoli vedremo. Allora, grazie Sandra Maria Gronewald per essere stata grazie con noi. Sandra Maria. Giornalista della ZDF, chiedo scusa ad Andrea da Milano e a tutti gli altri che ci hanno chiamato e non siamo riusciti a prendere le loro telefonate. Lo faremo, perché tanto il tema, insomma, i temi più o meno rimarranno questi. Cara Maria, ci risentiamo domani 8:20. A domani, ovviamente. Simone, ciao a tutti. E per quanto ci riguarda invece i ringraziamenti: Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca, Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Margherita Ine e Francesco Ciaraffo, i nostri autori come sempre. Noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30. Ciao.